Bene ragazzi, vi ho chiesto di pranzare insieme perché vorrei il vostro parere sul lavoro che sto facendo. Siamo tutti attenti, spara! Ultimamente mi capita spesso di mediare tra condomini e mi domando quanto sia difficile per le persone cambiare stile di vita. Non dimentico che molti immigrati prima dell'arrivo in Italia erano abituati a vivere in case singole e alcuni persino in campagna. Se tra gli italiani ci sono conflitti, immaginiamoci tra gente di culture diverse. È vero, nessuno ci pensa mai. Quali sono i problemi più comuni? Ho raccolto molte informazioni. I problemi nascono ad esempio quando si vuole comprare o affittare una casa, e tutti dovuti alla non conoscenza delle regole, alla mancanza di comunicazione e alle barriere culturali. Ascoltate bene e dopo accetto tutti i vostri commenti. Quando si cerca una casa in affitto non bisogna dimenticare che l'affitto deve essere pagato regolarmente e che quando si lascia la casa bisogna consegnarla tale quale a come la si è ricevuta. Per decidere quale casa affittare, la prima cosa da fare è controllare il costo dell'affitto, che si chiama anche canone, il costo annuo di registrazione e anche i costi di condominio, che sono a carico di chi prende in affitto, che si chiama affittuario. Poi bisogna controllare anche i costi di riscaldamento, di pulizia delle parti comuni, manutenzione ordinaria. Questa informazione la si può chiedere al proprietario oppure all'agenzia immobiliare. E la documentazione è reperibile sul bilancio annuale del condominio nella parte di ripartizione dei costi. In ogni contratto di affitto è stabilita la data entro la quale bisogna pagare la mensilità. La mensilità si può pagare con un assegno, con un bonifico oppure in contanti. In quest'ultimo caso è sempre molto importante avere una ricevuta che attesti il pagamento effettuato. Non dimenticare che oltre all'affitto bisogna pagare anche le spese condominiali che vanno valutate prima di prendere in affitto una casa o un appartamento. Di solito il proprietario chiede garanzie, per esempio avere un lavoro, un reddito sufficiente e chiede anche il deposito di una cifra come garanzia, chiamata caparra, che equivale più o meno a 3 mesi. Questi soldi vengono restituiti con gli interessi quando si consegna l'alloggio al proprietario, purché l'inquilino non abbia causato danni all'abitazione e che abbia pagato tutte le spese. Quando si prende in affitto una casa attraverso un'agenzia, bisogna pagare anche i costi all'agenzia e in genere si tratta di una mensilità... Di una mensilità, appunto. Bisogna sapere che il costo di registrazione, il 2% del canone di affitto annuo, deve essere ripartito a metà tra inquilino e proprietario. E questo vale anche per il costo delle marche da bollo che vanno sulle copie del contratto. I costi di intestazione dell'acqua, del telefono, della luce e del gas sono totalmente a carico dell'inquilino, cioè di chi prende in affitto la casa. Per legge, quando si affitta una casa, si deve fare un regolare contratto, redatto in duplice copia, con la firma del proprietario e dell'inquilino, e va registrato presso l'Agenzia delle Entrate. È buona pratica verificare le condizioni dell'abitazione prima di prenderlo in affitto. I contratti possono essere di 2 tipi, un contratto a libero mercato e un contratto a canone concentrato. Il contratto a libero mercato è 4 anni più 4 anni e si intende il prezzo dell'affitto è stabilito liberamente tra chi affitta, chiamato locatore, e chi prende in affitto, chiamato conduttore. Il contratto vale per 4 anni e poi si rinnova automaticamente per altri 4, a meno che il locatore non presenti una comunicazione formale in cui informa che non vuole più continuare ad affittare. E questa comunicazione si chiama disdetta e può essere presentata solo per giusta causa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Sul contratto sono indicati i termini di preavviso per dare la disdetta. Ma per sapere cosa si intende per giusta causa e per avere maggiori informazioni riguardo la disdetta, è consigliabile rivolgersi ad un'associazione di inquilini o ai sindacati di tutela degli inquilini, che si chiamano SUNIA, SICET e UIL Casa. L'altro contratto, quello a canone concertato, stabilisce che sono determinati da accordi tra inquilini e proprietari. Il costo dell'affitto è più basso perché è stabilito da accordi sindacali. La durata del contratto varia da città a città. I valori sono generalmente indicati in specifiche tabelle che si possono facilmente recuperare presso le associazioni della proprietà immobiliare, degli inquilini o i sindacati di cui ho parlato precedentemente. Questo contratto dura generalmente 2 più 3 3+2 anni e prevede agevolazioni fiscali tanto per il proprietario come per l'inquilino. Poi ci sono anche un contratto transitorio che ha una durata massima di 18 mesi e quasi sempre si usa quando si ha bisogno di affittare per un breve periodo. Il contratto di questo tipo non è rinnovabile e non sono previste agevolazioni fiscali. Esiste anche il contratto di subaffitto e si usa quando chi ha preso in affitto un appartamento affitta una parte, per esempio una camera. È possibile subaffittare soltanto se il contratto originario non lo vieta e bisogna sempre comunicare il nome del subaffittuario al proprietario, anche qui con una raccomandata con ricevuta di ritorno. Infine ci sono il contratto ad uso studenti universitari e il contratto di comodato. Il contratto riservato agli studenti ha una durata tra i 6 e i 36 mesi, si applica nei comuni in cui ha sede un'università e si prevedono agevolazioni fiscali per i proprietari. L'ultimo, il contratto di comodato, è essenzialmente gratuito e non prevede quindi un pagamento. È possibile, per esempio, dare ad un familiare o a un amico un appartamento che si possiede utilizzando questa forma. In genere si consegna un immobile per un tempo e per un uso determinato, con l'obbligo di restituirlo alla fine dell'utilizzo. Se non è stabilita una data finale, si parla di comodato precario. In caso di urgente e imprevisto bisogno di chi ha prestato l'immobile, questo può esigerne la restituzione immediata. In mancanza invece di un accordo tra le due parti, il giudice può stabilire un termine per la restituzione, in modo che chi vi abita possa lasciare vuoto l'immobile e trovare un'altra sistemazione abitativa. Viviamo tutti in un condominio e il condominio è un edificio con spazi ad uso comune e altri a uso individuale, di proprietà di più persone fisiche o giuridiche. Per le parti e i servizi comuni è necessaria una gestione comune e la figura dell'amministratore condominiale ha proprio il compito di fornire ai condomini e agli affittuari le informazioni utili e necessarie al condominio, con la possibilità di accedere a preventivi, fatture, deliberazioni e regolamenti. La carica dell'amministratore dura un anno e può essere rinnovata senza limiti di mandati e revoca, in ogni tempo dall'assemblea stessa. Periodicamente nei condomini vengono organizzate delle assemblee a cui possono partecipare sia i proprietari che gli affittuari, che però hanno diritto di voto solo per alcuni temi specifici. Per esempio, possono esprimere al posto del proprietario nelle deliberazioni che si riferiscono alle spese di gestione per i servizi di riscaldamento e di condizionamento dell'aria. Le spese condominiali sono necessarie per la conservazione e per l'utilizzo delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione di servizi nell'interesse comune, per esempio per la pulizia delle scale, e devono essere assolutamente suddivise tra i condomini in modo proporzionale rispetto all'estensione della loro abitazione, cioè alla grandezza dell'abitazione. Le spese dei servizi che non riguardano allo stesso modo tutti i condomini vengono suddivise in base all'uso. Un esempio su tutti è l'ascensore, che non è utilizzato da chi occupa i locali al pian terreno. La legge prevede anche che le spese per i danni causati da singole persone siano a carico esclusivamente del responsabile. Invece le spese di manutenzione comune sono a carico di chi prende in affitto. In questo caso si deve distinguere tra manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria. La manutenzione straordinaria si riferisce alle riparazioni e sostituzioni dell'impianto e spese di esercizio del servizio di riscaldamento che riguardano il costo del combustibile. Per quanto riguarda la ripartizione delle spese, il pagamento deve avvenire entro 2 mesi dalla richiesta e prima di eseguire il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese per le quali si richiede il pagamento. Ed è importante evidenziare che il proprietario è responsabile nei confronti del condominio per le quote non versate dall'inquilino. Di conseguenza l'amministratore potrà agire legalmente per il pagamento delle spese contro il condomino proprietario e non anche contro l'inquilino. È previsto un aiuto economico per gli affittuari che si chiama Fondo Sostegno Affitti ed è un contributo a favore delle famiglie che hanno sottoscritto un contratto di affitto oneroso sul mercato privato e che può essere richiesto dal 30 agosto al 30 ottobre. E poi la domanda può essere presentata nei comuni di residenza oppure nei centri autorizzati di assistenza fiscale, chiamati CAF, che siano convenzionati con il comune o con la regione Lombardia. In Lombardia possono richiedere questo contributo i cittadini che hanno la residenza anagrafica e l'abitazione principale in Lombardia, sono titolari di contratti di affitto validi e registrati oppure in corso di registrazione. Il contratto deve riguardare alloggi non di lusso e con superficie utile netta contratto deve riguardare alloggi non di lusso e con superficie utile interna non superiore a 110 metri quadri, aumentata del 10% per ogni componente del nucleo familiare oltre il quarto. È importante anche che questi cittadini che presentano la domanda abbiano la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno della durata di almeno 2 anni, una regolare attività lavorativa, anche in modo non continuativo, che sia lavoro autonomo o dipendente, e anche la residenza in Italia di almeno 10 anni oppure in Lombardia di almeno 5. Può succedere anche che ci sia uno sfratto. Lo sfratto è una disposizione del giudice che ordina all'inquilino di riconsegnare e rilasciare l'appartamento entro una determinata data. È importante rivolgersi, in caso di dubbi, anche in questo caso, alle associazioni o ai sindacati di inquilini. Nei comuni ad alta densità abitativa nel capoluogo di provincia, nei casi di sfratti per finita locazione, quindi per la conclusione del contratto di affitto, è previsto che l'inquilino possa richiedere al magistrato di fissare nuovamente il termine di rilascio, concedendo una proroga che normalmente non può superare i 6 mesi. È prevista un'eccezione per anziani maggiori di 65 anni, handicappati, disoccupati e cassi integrati. In questo caso la proroga può arrivare a 18 mesi. L'inquilino deve allegare all'istanza ogni documento utile per la valutazione del suo stato di bisogno e di necessità della proroga. La data indicata dal giudice non è prorogabile nei casi di necessità, morosità e inadempienza contrattuale. Esauriti tutti i termini di proroga, se l'inquilino non riconsegna l'immobile, il proprietario ha diritto a eseguire il provvedimento ricorrendo alla forza pubblica. Tuttavia, la legge prevede che possano eseguire gli sfratti soltanto i proprietari che siano in regola con il fisco. In altre parole, i proprietari che abbiano pagato tutte le tasse. Abitare in un condominio vuol dire vivere a stretto contatto con persone provenienti da paesi diversi, con leggi e modi di abitare diversi. E quindi c'è la possibilità che si creino problemi e difficoltà di comunicazione. È necessario, quindi, mediare tra la libertà individuale che ognuno ha e il diritto di esercitare... No. Abitare in un condominio vuol dire vivere a stretto contatto con persone che provengono da paesi diversi, dove ci sono leggi e modi di abitare diversi. C'è quindi la possibilità che si creino problemi e difficoltà di comunicazione. Dunque è necessario mediare tra la libertà individuale che ognuno ha e il diritto... Ma no. Manca qualcosa. Abitare in un condominio vuol dire vivere a stretto contatto con persone che provengono da paesi diversi, con leggi e modi di abitare diversi. C'è quindi la possibilità che si creino problemi e difficoltà di comunicazione. Dunque è molto importante e necessario mediare tra la libertà individuale che ognuno ha il diritto di esercitare in casa propria e le esigenze collettive. Conoscere le abitudini e le consuetudini, il regolamento di condominio, le specifiche ordinanze comunali e disposizioni di legge aiuta a ridurre le occasioni di conflitto. Ecco perché è auspicabile tenere particolari accorgimenti, come il decoro architettonico, cioè la decisione di installare impianti o di collocare oggetti visibili all'esterno, come per esempio panni stesi, tende parasole, verande, condizionatori esterni o antenne paraboliche, è presa da tutti i condomini. Le opinioni personali al riguardo sono solitamente molto differenti, ma è bene ricordare che sono vietate le innovazioni che alterano il decoro architettonico dell'edificio, cioè la sua struttura e immagine. In più, sono vietate anche le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza del prefabbricato e che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. L'antenna centralizzata o antenna singola individuale. Allora, la sua installazione viene deliberata dall'assemblea. La spesa è ripartita tra i proprietari. Per quanto riguarda le antenne singole individuali, la prima verifica da fare è che il regolamento di condominio non ne vieti l'installazione. Dopodiché occorre considerare che tale installazione non debba recare danni e non debba limitare il libero uso delle parti comuni dell'edificio. L'installazione dell'antenna individuale sul tetto deve comunque essere autorizzata dall'amministratore condominiale. Se in un appartamento non sono rispettate queste indicazioni, un altro residente o anche l'amministratore stesso possono fare causa, obbligando in ultimo alla rimozione dell'antenna abusiva, alla riparazione di eventuali danni ai muri e al pagamento delle spese legali. A volte sui terrazzi e sui balconi si crea un cumulo eccessivo di oggetti, materiali che possono essere reti, materassi, tappeti, grossi contenitori di legno o di plastica, oppure che ci sia la copertura con teli protettivi che, essendo visibili dalla strada, possono compromettere il decoro e l'estetica dell'edificio. Inoltre, un peso eccessivo potrebbe causare anche problemi di stabilità per il balcone. I casi più comuni di oggetti collocati sul terrazzo e di relative liti riguardano infissi metallici di chiusura, tende veneziane o verande, fioriere, antenne, unità esterne del condizionatore d'aria, armadietti metallici, caldaie o contenitori di gas, contatori del gas, sopraelevazioni oppure nuova ringhiera. Valgono alcuni buoni consigli per evitare le liti. Per quanto possibile, vi consigliamo di posizionare gli oggetti al di sotto della linea di ringhiera, in modo che siano poco o nulla visibili dalla strada. Per l'installazione di verande, tende, contatori e armadietti esterni a parete, cercare di utilizzare oggetti simili a quelli eventualmente già installati da altri condomini. Se non si hanno precedenti installazioni, informare gli altri abitanti e l'amministratore dell'intenzione di mettere oggetti o dispositivi sul balcone e chiedere consiglio, consultare e rispettare quanto previsto nei regolamenti condominiali. Esistono limiti di occupazione di un'abitazione che prevedono un certo numero di abitanti. L'informazione si può trovare nei sindacati inquilini o presso l'ALER e quando i limiti non vengono rispettati si può parlare di sovraffollamento. In caso di affitto, nell'appartamento dovrebbe abitare stabilmente solo la persona o le persone indicate nel contratto e vengono in genere automaticamente esclusi gli stretti familiari, inclusi gli stretti familiari. Rifacciamo. Esistono limiti di occupazione di un'abitazione che prevedono un certo numero di abitanti. L'informazione si può trovare nei sindacati inquilini o presso l'ALER e quando i limiti non vengono rispettati si può parlare di sovraffollamento. In caso di affitto, nell'appartamento dovrebbero abitare stabilmente solo le persone indicate nel contratto e vengono in genere automaticamente inclusi gli stretti familiari, quindi il coniuge e i figli, anche in caso di ricongiungimento familiare. È consigliabile comunicare all'amministratore entro 15 o 20 giorni al massimo il numero aggiornato degli occupanti dell'appartamento, per correttezza, ma anche per poter ripartire correttamente le spese. Per subaffitto si intende l'affitto da parte del conduttore di un locale. Per subaffitto si intende l'affitto da parte del conduttore di un locale o di una stanza ed è consentito solo se il contratto principale di locazione lo prevede, e questo l'abbiamo già detto in precedenza. Non esiste un limite temporale minimo o massimo di permanenza nei locali o nei posti letto affittati. Il problema nasce quando l'affittuario cede l'appartamento ad altri senza il consenso scritto del proprietario. Si tratta di un abuso che può avere conseguenze legali che conducono fino allo sfratto e al pagamento delle spese. Nei casi più gravi si può incorrere in reati legati all'ospitalità e permanenza abusiva di persone o favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ancora diverso è il caso in cui l'attività di ospitalità e di cessione di locali e di posti letto sia fatta senza alcun contratto di subaffitto. Qui si può configurare il reato di esercizio abusivo di attività economica ed anche l'infrazione di numerose norme fiscali. Si potrebbe arrivare fino al pignoramento dell'immobile. La legge italiana chiede che tutte le persone, che siano italiane o no, che abitano in una casa, siano identificabili. Per questo ogni proprietario che ospita per lunghi periodi una persona nella propria abitazione deve presentare una denuncia di cessione del fabbricato. E questo entro 48 ore dalla cessione. Se un affittuario ospita una persona per più di 48 ore, deve comunicarlo subito al proprietario, che poi farà denuncia all'autorità. Qualora gli ospitati siano cittadini extracomunitari, è richiesto il possesso di un documento di soggiorno. Se dovessero essere irregolari, il proprietario rischia alte sanzioni e addirittura anche la confisca dell'immobile. Il mancato pagamento delle spese di condominio da parte di un condomino fa sì che tutti gli altri condomini si trovino a pagare anche quella quota, con sicuramente un aggravio dei loro costi. L'amministratore condominiale, qualora fosse previsto dal regolamento contrattuale, può sospendere all'occupante il debito all'occupante. L'amministratore condominiale, qualora fosse previsto dal regolamento contrattuale, può sospendere all'occupante in debito l'utilizzazione di quei servizi comuni che possono essere separati nel loro godimento. Se l'affittuario non pagare le spese di condominio, queste devono essere saldate dal proprietario. Lui ne è responsabile ultimo. Se il debito dell'inquilino verso il condominio supera il valore di 2 mesi di affitto, è possibile richiedere lo sfratto. Se invece è il proprietario a non pagare le spese, l'amministratore condominiale ha la possibilità di effettuare un decreto ingiuntivo. Ottenuto questo, se il debito non viene ancora saldato, l'amministratore può passare al pignoramento mobiliare o immobiliare. E questo comporta delle spese molto alte e dei tempi lunghi. Il conteggio dei costi dell'acqua a persona tiene conto solo dei residenti ufficiali e dichiarati, e non degli ospiti non dichiarati e di lungo periodo. Se ci sono nuovi abitanti non dichiarati, il consumo di acqua aumenta, però il costo ricade sugli altri inquilini ed è quindi necessario informare l'amministratore, che comunque ha la facoltà di informarsi. Se il condominio ha un contatore centralizzato per modificare la modalità di ripartizione delle spese o per autorizzare il singolo condomino a staccarsi, occorre la totalità dei consensi. È invece sufficiente il consenso della maggioranza dei condomini o anche solo dell'amministratore per installare contatori di lettura individuali. Però i contatori dovranno poi essere letti periodicamente per controllare il consumo. È importante rispettare la quiete altrui e svolgere solo attività consentite dalle leggi nazionali e dalle altre normative locali. Per questo per limitare rumori esagerati ad ore improbabili, i regolamenti di condominio prevedono di norma orari da rispettare negli appartamenti. Nel caso di disturbo, i condomini che subiscono il fastidio possono chiamare direttamente le forze dell'ordine e richiedere di cessare immediatamente la confusione. Se l'episodio si ripete nel tempo, oltre ai richiami scritti dell'amministratore di condominio, è possibile citare in giudizio i trasgressori. Il singolo cittadino può rivolgersi al giudice di pace per ottenere il rispetto dei rapporti di vicinato, chiedendo il divieto di immissioni, esalazioni, rumori e scuotimenti che superano la normale tollerabilità. In caso estremo, nei confronti di chi provoca rumore, può essere intentata una causa penale che inizia con un atto di denuncia presentata alla polizia giudiziaria, che possono essere i carabinieri o la polizia, che lo trasmette subito alla pretura competente affinché proceda agli accertamenti. L'olio fritto bollente utilizzato per cucinare e i residui di cucina gettati nello scarico del lavandino possono creare intasamenti nelle tubature o danneggiamenti delle stesse, e questo può rendere necessaria una pulizia e manutenzione più frequente delle tubature, con ovvi costi a carico dell'intero condominio. L'olio va smaltito senza versarlo nel lavandino, e questo è molto importante perché intasa le tubature e causa problemi anche ai depuratori più sofisticati. Inoltre, l'olio di frittura inquina l'ambiente. Il miglior modo per smaltirlo è lasciarlo raffreddare, versarlo in un contenitore e portarlo periodicamente presso le stazioni ecologiche o gli ecocentri, dove esistono dei contenitori appositi per la raccolta differenziata. L'olio vegetale infatti può essere riciclato per creare sapone o altri prodotti. Qualora non ci sia lo smaltimento differenziato, è possibile smaltire l'olio in quantità modeste nella spazzatura generica, anche con l'aiuto di carta domestica assorbente. In caso di danneggiamento e intasamento della tubatura con necessità di intervento del tecnico, la spesa ricade sull'inquilino che ha causato il danno. Gli abitanti di un edificio devono sempre tenere in ordine gli spazi comuni, anche quando questa manutenzione periodica è affidata delle imprese di pulizia esterne. È opportuno utilizzare gli appositi cestini per gettare i rifiuti, e dove non ci sono, i rifiuti non vanno comunque gettati a terra. È consigliabile verificare la tenuta dei sacchi di immondizia prima di uscire dall'appartamento, in modo da evitare che ci siano delle gocce maleodoranti o scivolose sui pianerottoli, nell'ascensore o anche nelle scale. In caso di perdita di liquidi occorre provvedere immediatamente alla pulizia di quanto sporcato. Se la sporcizia è riconducibile a un singolo occupante, l'amministratore condominiale potrà addebitare direttamente a lui la spesa per la pulizia straordinaria. La presenza di qualsiasi tipo di sporco lede il decoro degli stabili, ma soprattutto rappresenta un pericolo dal punto di vista igienico-sanitario e dell'incolumità fisica delle persone. Un esempio su tutti sono le chiazze scivolose sulle scale. In caso di rifiuti abbandonati in un'area comune del condominio, è importantissimo informare l'amministratore, che richiederà l'intervento di un'impresa specializzata nella rimozione o del comune per il successivo trasferimento in discarica. Questa attività ha un costo che va ripartito fra tutti i condomini. Se tuttavia si individua responsabile dello scarico abusivo del materiale, il costo dell'intervento di rimozione ricadrà soltanto su di lui. La suddivisione delle spese di ascensore è data combinando il piano a cui si trova un appartamento e il numero dei suoi occupanti effettivi. L'amministratore potrà raccogliere informazioni per accertare l'esatto numero di persone che abitano realmente nei diversi appartamenti e utilizzare tali informazioni per ripartire le spese. In genere le spese di manutenzione ordinaria dell'ascensore sono a carico di chi vive nell'immobile, sia esso proprietario o inquilino. Solo se vi è evidenza che un danno all'ascensore è stato causato da una particolare persona, sarà possibile imputare la spesa di ripartizione ad un solo appartamento. A volte gli spazi comuni dei condomini vengono indebitamente occupati da oggetti di vario tipo, come possono essere biciclette, mobili o materassi, che ne impediscono l'uso previsto, creando a volte problemi di passaggio alle persone e anche in questo caso ledendo il decoro dello stabile. In casi simili l'amministratore invia inizialmente lettere di sollecito. A volte gli spazi comuni dei condomini vengono indebitamente occupati da oggetti di vario tipo, come per esempio biciclette, mobili o materassi, che ne impediscono l'uso previsto e creano a volte problemi di passaggio alle persone e ledono il decoro dello stabile. In caso di occupazione impropria di tali spazi, l'amministratore in un primo momento invia lettere di sollecito mirate se ha conoscenza di chi ha infranto il regolamento, oppure rivolte a tutti i condomini se invece non si sono individuati i responsabili. Viene concesso un limite di tempo entro cui rimuovere gli oggetti. Se tale richiesta ha esito negativo, l'amministratore provvederà, a seguito di un'azione in tribunale, alla rimozione tramite ufficiale giudiziario degli oggetti, addebitando la spesa complessiva ai proprietari di tali beni, se sono stati individuati. Oppure la spesa verrà ripartita su tutto il condominio. Può succedere che in alcuni appartamenti si svolgano attività con finalità economiche e di lucro, come laboratori artigianali, o per il confezionamento di abiti, ristorazione, ospitalità alberghiera, phone center o internet point, vendita di indumenti che però di norma non sono consentite. Se invece i locali del condominio hanno una destinazione diversa dal solo uso abitativo, in base alla classificazione ci... No, qua non va bene. Può succedere che in alcuni appartamenti si svolgano attività con finalità economiche e di lucro, come laboratori artigianali, per il confezionamento di abiti, ristorazione, ospitalità alberghiera, phone center o internet point, vendita di indumenti, che però non sono consentite. Ma ci possono essere anche locali con destinazione diversa dal solo uso abitativo, per esempio uffici, laboratori, magazzini, negozi, pizzeria. L'importante è che ci sia una classificazione ufficiale e che la destinazione d'uso sia specificata. È bene tenere presente che la destinazione d'uso ordinaria non è modificabile. Un caso consentito dalla legge permette di dedicare una parte dell'appartamento ad uso ufficio per la propria attività professionale, senza tuttavia che questa attività possa avere carattere prevalente e purché sia vigente il divieto di apertura al pubblico. Chi non rispetta queste regole può incorrere in sanzioni. I garage hanno una destinazione d'uso ben precisa, ma in alcune situazioni marginali è stato riscontrato che alcune persone utilizzavano il garage a uso abitativo. Quando si riscontra che una o più persone stanno vivendo all'interno di un garage, utilizzandolo come una propria abitazione, occorre avvertire in primo luogo il proprietario, che a volte non lo sa. In seguito è necessario fare denuncia alla polizia o ai carabinieri. ed eventualmente informare anche la ASL e il comune. Si provvederà allo sgombero dell'immobile in quanto non destinato ad abitazione e il proprietario potrebbe avere delle responsabilità se nel contratto di affitto cede in locazione un garage ad esplicito uso abitativo. Alcuni occupanti del condominio conservano i cibi in contenitori non sigillati e soprattutto in spazi aperti o sui terrazzi. Un esempio su tutti il pesce essiccato, con fuoriuscita di odori forti e sgradevoli. In altri casi si cucina sul terrazzo o con le finestre aperte, facendo uscire odori forti e a volte sgradevoli per gli altri abitanti. Talvolta, per la presenza di odori cattivi, taluni abitanti temono che vi possano essere prodotti avariati, quindi il rischio che si diffondano parassiti e malattie. Le emissioni di odori e di esalazioni maleodoranti possono essere considerate reato ed equiparate al getto pericoloso di sostanze o al disturbo del rumore. I cattivi odori, per essere considerati reato, devono avere un carattere non momentaneo e devono risultare davvero intollerabili o comunque provocare un evidente fastidio fisico. Nei danni sono considerati anche gli effetti di tipo psicologico, l'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione. In queste situazioni la prima cosa da fare è accertare da dove provenga il disturbo olfattivo e fare poi presente ai vicini il fatto da loro provocato, chiedendo la rimozione dei prodotti e dei cibi maleodoranti. Se l'odore persiste è possibile sporgere denuncia all'autorità e chiedere soprattutto l'intervento dell'ASL per un'ispezione sanitaria, per accertare che non vi siano rischi alla salute pubblica. Se non vi sono rischi sanitari è comunque possibile seguire le vie legali per far cessare le emissioni di cattivi odori. L'iter sarà piuttosto lungo, occorreranno pareri di esperti e verifiche nel condominio, potendo anche ricorrere al giudice di pace. Se verrà riconosciuto il fatto del cattivo odore persistente e molesto, è dunque il danno subito il responsabile si troverà a pagare delle sanzioni in denaro. Normalmente i regolamenti condominiali vietano la tenuta di animali, ad esclusione di cani, gatti o pesci, a patto che non arrechino disturbo. Dunque la tenuta di altri animali vivi è in genere vietata. Per quanto riguarda uccisione e macellazione di animali, esistono soprattutto regolamenti sanitari che limitano l'attività al di fuori dei macelli autorizzati. Pertanto la macellazione domestica non è consentita nemmeno per scopi rituali e religiosi e in nessun locale della casa. In alcuni stabili sono presenti parcheggi condominiali aperti, non delimitati da sbarre o cancelli, che vengono occupati anche da non residenti. A volte le vetture vengono abbandonate lì anche per lunghi periodi, contribuendo a creare degrado ed occupando uno spazio pubblico. Ma attenzione, il condominio non può decidere autonomamente di delimitare l'area parcheggio con sbarre o cancelli. Nei casi di automobili abbandonate nei parcheggi privati ad uso pubblico, l'amministratore può chiedere l'intervento della polizia municipale, che a seconda dei casi potrà decidere anche per la rimozione del mezzo. Se l'automezzo risultasse inutilizzabile, potrà essere considerato come rifiuto urbano ingombrante e quindi smaltito in discarica. Le spese saranno a carico del proprietario dell'automezzo. Se invece il veicolo è in buono stato ma l'assicurazione è scaduta, verrà effettuata la rimozione verso un deposito automezzi. Oltre alla sanzione, il proprietario dovrà pagare le spese di rimozione, di trasporto e di sosta presso il deposito. Salvo disposizioni diverse previste dal rogito, dal regolamento di condominio o da altre delibere assembleari, l'utilizzo dei posti macchina è riservato solamente ai condomini e ai residenti. Chi utilizza in modo non autorizzato un posto auto può essere prima richiamato dall'amministratore, poi portato in giudizio per abuso di utilizzo della cosa comune, con altresì richiesta risarcitoria dei danni. Anche i clienti di un'attività commerciale del condominio non sono tenuti a occupare i posti auto del cortile privato.